Oh, ciao. Ok. Ciao. Non voglio darci un nome. Siamo tutti qui contentissimi. Carrefour. Gente seria, ciao. Questo, gente seria. Quello che vedo dalla finestra quasi ogni giorno. Dai, ci proviamo. Passano i trap. Sono cose banali, ma questa è la realtà. Pure peggio. Peggio. La realtà che ti mangia. Canniamo. Noi siamo contenti. Viva, cazzo si dice comunque. Il traffico prosegue costante e regolare. Un altro pomeriggio anonimo, zero voglia di lavorare. Masse umane sfoltite, inesorabili in movimento. In direzione a tratti convulse, faccia neutra, sguardo spento. Supermarket, parcheggio, carrelli ambulanti. Extracomunitari alla fermata, bambini sguardi spenti. Ancora, un'altra volta, certo ancora. Lenta, inesorabile, passa ogni ora. Dove? Dovevo andare oggi? Dove non vuoi andare oggi? Oh, che figo, dai, su. Autotrasporti, ambulanze, sirene spiegate di frequenti. Di nuovo l'ammasso sfoltito della gente. Discount cinese, prezzi bassi e qualità del cazzo. Nel retro senza tetto nordafricani, in incessante schiamazzo. La routine ti distrugge, ma ne hai sovente bisogno. Un tarno nel legno, scava un loculo da sogno. Arcigno il mio sguardo alla visione dall'udito. Questa terribile, meravigliosa routine è di ogni volta meditativo. Dove non vuoi andare oggi? Dove? Dove non vuoi andare oggi? Dove? Dove non vuoi andare oggi? Vuoi andare oggi? Dove non vuoi andare oggi? Dove? Dove non vuoi andare oggi? Dove non vuoi andare oggi? Dove non vuoi andare oggi? Dove non vuoi andare oggi? Vi garantisco che è bellissimo, una vita bellissima. Certo. Una figata. Consuma, produci, crepa, chi c'è ma lavora, produci, insomma, l'apparenza è quello. Che figata. Ma che alternative ti si possono presentare davanti? Dai, vai a drogare. Dai, dimmelo, idiota.